Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. I comuni di fronte alla scure del decreto, tagli ai servizi e drastiche cure dimagranti per far fronte alla riduzione di risorse dallo Stato. I comuni protestano, dicono non ce la possiamo fare. I sindaci dovranno fare i conti con minori risorse. Si trovano a dover fronteggiare i tagli lineari imposti dalla spending review. Tagli e ancora tagli, enti locali al collasso, finanziaria del governo centrale che incide fortemente sulle ormai magre casse per i comuni. C'è la rivolta dei sindaci nel dopo Pasqua di Matteo Renzi. La scelta non sarà facile, tagliare i servizi o aumentare le tasse. Dario Nardella, sindaco di Firenze, amico, successore di Renzi. Buongiorno. Renzi, appena eletto, ha detto: sarò il sindaco d'Italia. Adesso però i sindaci sono a rivolta contro di lui. Non ci sta riuscendo a essere sindaco d'Italia. Buongiorno Minoli, buongiorno agli ascoltatori. No, io penso che ci stia riuscendo. Condivido pienamente il difficile e ambizioso progetto di cambiamento del Premier. Anche perché i sindaci possono contribuire a tutto questo. Del resto la riforma del lavoro, se vediamo, di recente ha cominciato a produrre risultati. Proprio a Firenze ieri alcuni artigiani fiorentini, la CNA, hanno annunciato di aver assunto 300 nuovi lavoratori con il Jobs Act. Questo è buono naturalmente, ma dov'è che è più indietro? Non parlerei di essere indietro, c'è da cambiare un paese che per 20 anni ha avuto tante difficoltà e quindi è chiaro che non si può fare tutto in 4 mesi, in pochi mesi. Comunque la direzione a mio avviso è quella giusta. Ecco, però i sindaci, comunque l'abbiamo sentito, l'abbiamo detto, se ne parla tutti i giornali, sono sul piede di guerra contro il governo, contro i nuovi tagli da fare per, diciamo, impedire l'aumento dell'IVA. Siamo in qualche modo su questo punto a Nardella contro Renzi. No, guardi, lo voglio dire molto chiaramente, Minoli, assolutamente no. Io prendo le distanze da una polemica sterile e controproducente, proprio in un momento in cui l'Italia sta uscendo dalle secche. Io ho ascoltato il presidente Renzi ieri sul DEF e sono d'accordo sul fatto che ciascuno debba fare la sua parte. Certo. Infatti il punto non è la decisione di tagliare i trasferimenti agli enti locali, perché tutti devono fare i sacrifici e le posso dire, abbiamo già approvato il bilancio a Firenze senza alzare le tasse e soprattutto senza lamentarsi. Vabbè, ne parliamo di questo, sì. No, però Fassino, che è il sindaco di Torino e il presidente dell'ANCI, senta cosa ha detto. Dal 2010 ad oggi i comuni hanno contribuito con oltre 17 miliardi di euro al risanamento finanziario del paese. Adesso chiediamo che si cambi strada, che si chieda anche ad altri, che si chieda soprattutto alle amministrazioni centrali dello Stato, che hanno contribuito molto meno di quanto abbiano contribuito i comuni in questi anni. Ecco, ha ragione o torto Fassino? Ma Fassino, quando parla del fatto che in questi anni i comuni hanno dato molto, ha ragione, e io apprezzo l'atteggiamento sempre disponibile che lui ha. Come presidente dell'ANCI confido che cercherà un approdo, una soluzione condivisa, che da un lato consenta al governo di andare avanti sul progetto di risanamento, dall'altro consenta agli enti locali di fare la propria parte senza che vi siano sproporzioni nel carico dei tagli. Ecco, Fassino dice sul giornale di oggi che le regole di bilancio però sono cambiate 64 volte dal 2011, ma questo significa avere delle idee poco chiare anche. Ma cosa devo dire? Se il governo propone la local tax, io penso che vada proprio nella direzione di avere regole più semplici, anche meno balzelli, con un rapporto più snello tra le entrate e le spese però. Senta, ma mi dica una cosa, la divisione dei carichi per ogni comune è uguale, è proporzionale? È questo il punto che io pongo, Minoli, e non voglio essere confuso su questo tema. Ecco, mi dica con chiarezza. Io non critico la politica del governo, che anzi ho sempre condiviso fin dall'inizio, ognuno faccia la sua parte. D'accordo. Ho posto nell'ANCI, e lo dirò anche domani, un tema di ripartizione dei sacrifici. Cioè? Ma le sembra spiegabile il fatto, io non ho nulla contro gli amici bolognesi, ma le sembra comprensibile il fatto che la città metropolitana di Bologna abbia il 5% di tagli e quella di Firenze, cioè la vecchia provincia, la città metropolitana di Firenze, abbia il 23% dei tagli? Io pongo questo tema. Ecco, ma mi spiega bene questo, com'è possibile? Chi lo decide? Vi sono dei criteri tecnici che stabiliscono tutta una serie di modalità, ma appunto io pongo il problema, poi dobbiamo risolverlo tutto insieme, ma il problema c'è. Quindi lei dice c'è chi in ogni caso paga molto di più e altri molto di meno, con un criterio che non è politico, non so, o che non esatto, so qual è. Esatto, e le aggiungo che c'è anche, spesso sono colpiti gli enti locali più virtuosi, questo è un tema che conosciamo tutti bene, conosce bene anche il Premier Renzi che è stato sindaco appunto prima di me. Allora, poniamo un tema, non facendo polemica tra sindaci e governo, che non serve a nulla, ma su come si possono applicare dei tagli proporzionali e giustificabili ai vari enti locali diversi, sulla base anche delle loro capacità. Senta, ma adesso non si parla di comuni, ma da città metropolitane. Cosa vuol dire esattamente, in due parole? Le città metropolitane sono gli enti locali, gli enti nuovi che hanno preso il posto delle vecchie province in 14 grandi città italiane. Io trovo che sia un grande risultato della legge Delrio, che tra l'altro ci avvicina all'Europa, dove appunto vi sono le grandi città metropolitane. Ecco, però... però non possono essere una copia sbiadita delle vecchie province, non c'è dubbio, le città metropolitane devono essere qualcosa di nuovo e quindi è giusto che facciano i conti con i tagli. Ecco, ma al di là dei nomi, il personale delle province abolito dalla legge Delrio che fine fa? Il personale deve essere trasferito alle regioni, una parte di questo personale, proprio perché città metropolitane avranno meno funzioni di quelle del passato, soprattutto le province di secondo livello avranno meno funzioni, quindi saranno anche enti più snelli, con meno personale, e faranno più programmazione che gestione diretta. Ecco, insomma, ma si devono rinnovare. Ecco, ma le città metropolitane non è che sono un altro modo di dire comune più province? Bravo, non devono esserlo. Guai se noi pensiamo di poter fare di poter andare avanti come se nulla fosse cambiando solo l'etichetta agli enti. Prenderemmo in giro i cittadini e non applicheremmo il senso della legge Delrio. Ecco, però intanto, per parlare di cittadini, solo l'IMU sulla casa negli ultimi 4 anni è aumentata del 107%. Come continuerà a aumentare per colmare i tagli? Guardi, io non so nel resto d'Italia, ma se devo guardare Firenze, no, noi abbiamo approvato il bilancio, le dicevo, 2015 l'abbiamo già approvato, tra l'altro, senza lamentarci, e non abbiamo toccato né TASI né IMU, anzi abbiamo aumentato gli sgravi fino a 35 euro a figlio per le famiglie sulla TASI, e nel caso di aziende che investono per la prima volta in città lo abbiamo azzerato nei primi 3 anni, quindi se devo guardare la mia realtà le dico di no. Certo, ma le 10.000 partecipate dei comuni non sarebbe ora di ridurle proprio per avere un vantaggio a favore dei soldi che si cercano? Assolutamente sì, vede. Appunto, ecco, ma nel suo comune, facciamo una cosa concreta, per esempio, quante sono da voi le partecipate? Noi abbiamo 20 partecipazioni in 20 società partecipate. E quante ne volete far diventare? Guardi, proprio la scorsa settimana abbiamo presentato un piano che le riduce da 20 a 13 e le aggiungo. Non c'è solo un tema di quante partecipate, ma anche dei bilanci delle partecipate. Quest'anno abbiamo chiuso in pareggio. Tutte 20 pareggi. Il sindaco ha privatizzato l'azienda dei trasporti pubblici, Nataf, quindi queste cose si possono fare, si devono fare. Sono tutte 20 in pareggio? Sì. Ah. Senta, sindaco Nardella, ma i veri... Ma le ridurremo a 13, sì. Senta, è giusto andare in questa direzione. Senta, sindaco Nardella, ma i veri nemici dei tagli ai comuni non sono quei 35.000 centri di spesa pubblica esistenti che sono fuori controllo? Ma ha ragione, il tema va posto in generale, cioè il fatto che ci sono molti centri di spesa e forse su questo i comuni hanno anche la responsabilità di avanzare delle proposte e di fare la propria parte, non c'è dubbio. Ecco, ma non sarebbe il caso di fare una battaglia dell'ANCI, cioè di voi Comuni Uniti, contro questo, questo Moloch, perché 35.000 agenti di spesa fuori controllo quasi sono una cosa che non ci si riesce neanche a immaginare. Ecco, fare una battaglia uniti invece di farvi un po' una guerra fra poveri, fra di voi? Sono d'accordo, è inutile fare guerre tra di noi, ma soprattutto è inutile alimentare polemiche sterili con il governo. Stiamo al merito delle questioni e i cittadini ci capiranno. Senta, un'ultima cosa. Pisapia, il sindaco di Milano, dice che le richieste dei comuni sono ragionevoli e che vanno accettate, se no tutti insieme in guerra. È d'accordo? No, io non sono per fare le guerre. Io sono perché tutti insieme superiamo una difficilissima crisi economica dalla quale l'Italia sta cominciando ad uscire, e sono sicuro che possiamo farlo. Grazie sindaco. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Sono le ore 23 di sabato 21 luglio. Amici ascoltatori, un momento molto tragico, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo come topi in trappola. È il 21 luglio del 2001, questa è la diretta di Radio Gap, che quel giorno trasmetteva appunto in diretta dalla Diaz, la scuola nella quale sono avvenuti i fatti che la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha considerato tortura. Questa è la testimonianza di una delle vittime, Lella Zulk. Ero entrata nella scuola pochi minuti prima che arrivasse la polizia. Quando ho sentito persone che urlavano, sono uscita dall'aula. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto il cortile davanti alla scuola pieno di poliziotti che correvano davanti al portone. Radio Gap, ragazzi, sta per essere bomberata, manteniamo calma, la calma. Seduti e mani alzate. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e sono questa polizia fascista, sono che è entrata poliziotti nella radio. Sede di una radio. Abbiamo iniziato a correre su per le scale, fino al quarto piano. Ci siamo nascosti in uno sgabuzzino. Poi dopo pochi minuti ho cominciato a sentire i tonfi dei manganelli contro il muro. La porta dello sgabuzzino è stata spalancata con violenza. I poliziotti hanno trascinato fuori prima il mio ragazzo e hanno cominciato subito a picchiarlo. Mi hanno trascinato giù tirandomi per i capelli. Io ero aggrappata al poliziotto che mi trascinava, mentre gli altri che camminavano dietro mi picchiavano sulla schiena e sulle gambe. Vedevo tutto nero, stavo per svenire. E loro continuavano a picchiare e a darmi calci dappertutto. ...250 agenti si presentano ai cancelli della Diaz. Dopo averli sfondati, irrompono nella scuola passando per la porta principale. Ma all'interno della scuola i temuti Black Bloc non ci sono. Ci sono solo dei giovani impauriti. La polizia mette a soqquadro le aule dove dormono i manifestanti. Ma la perquisizione è dura, violenta. Dopo mezz'ora dall'inizio dell'irruzione, dalla scuola cominciano ad uscire barelle con ragazzi insanguinati. Quando sono arrivata al pronto soccorso, hanno scoperto che avevo costole rotte e che alcune si erano conficcate in un polmone e lo avevano perforato. Sentiamo le testimonianze di allora di Vittorio Agnoletto, portavoce del Genova Social Forum, e poi di Roberto Sgalla, all'epoca capo ufficio stampa della polizia. Voglio vedere cosa avete fatto, voglio, chiamate il vostro capo, forza, il vostro commissario. La prima cosa che faccio in quel momento è chiamare Andreassi, che era il nostro interlocutore, il vice capo della polizia. Chiedo, ma cosa state facendo? Fermi i suoi uomini, dia un ordine, ma qua è un massacro. E dall'altra parte, prima un silenzio imbarazzato e poi un l'abbiamo deciso. Sicuramente abbiamo trovato tutte le divise dei neri, cioè divise intere, cioè le camicie, le maglie, i pantaloni, i, come si chiamano, i passamontagna, state eccetera. Trovate. Sì, sono qui dentro. Un'enorme confusione, ma soprattutto tanto sangue. Sono queste le immagini che si presentano ai primi testimoni che riescono ad entrare nella Diaz dopo l'irruzione della polizia. Dottor Sgalla, ci sono stati scontri particolarmente violenti con i manifestanti. Le agenzie parlano di già almeno 40 feriti. Ma molti no, un numero sicuramente esagerato. Oltretutto molti erano già feriti nel pomeriggio e non erano andati presso gli ospedali a farsi medicare, in quanto c'era il sangue rappreso e quindi era evidente che le ferite rimontavano a tempi... Blitz della polizia fra gli anti G8 a caccia dei violenti, 92 fermati, oltre 60 feriti, divampa la polemica. Ansuino Andreassi, numero 2 della polizia, parla di tute nere, di coltelli, di 2 bottiglie Molotov. Abbiamo trovato bottiglie Molotov, abbiamo trovato coltelli, abbiamo trovato strumenti di offesa di ogni tipo, abbiamo trovato le tute nere che contraddistinguono il Black Bloc. Credo che questo sia un quadro sufficientemente chiaro di chi occupasse quella scuola. La polizia ne è convinta. All'interno della Diaz si nascondevano dei violenti. Il 24 giugno 2002, deponendo al processo per i fatti della Diaz, il vicequestore aggiunto Pasquale Guaglione ha dichiarato che le Molotov rinvenute nella scuola sono le stesse già sequestrate dalla polizia nel pomeriggio di quel 21 luglio. Non guarderanno in faccia nessuno. Se ci sono delle responsabilità, verranno presi provvedimenti a qualunque livello. Ad essere sospesi sono il questore di Genova, Francesco Colucci, il capo dell'Ucigos, Arnaldo La Barbera, e il vice capo della polizia, Ansuino Andreassi. Sono loro a pagare per non essere riusciti a difendere adeguatamente Genova. Laura Tartarini, avvocato, la più giovane legale del Genova Legal Forum, ha seguito decine di ragazzi coinvolti nei fatti del G8 di Genova, sia della Diaz che della caserma di Bolzaneto. Ecco, questa sentenza, per lei che segue la vicenda di Genova dal 2001, cosa significa? Ma io credo che sia un rintocco di una sveglia prevalentemente per la politica, perché poi il caso giudiziario in Italia si è esaurito con la sentenza della Corte di Cassazione, che peraltro anticipa anche molte delle considerazioni che sono state fatte dalla CEDU, certo, in questa pronuncia. Quindi lei si augura che abbia delle conseguenze politiche, nel senso di fare una legge ad hoc? Di fare una legge ad hoc, ma non solo. Io credo che la Corte ci stia anche dicendo che non è possibile che tutti i condannati della Diaz, per esempio, siano non solo rimasti ai loro posti, ma abbiano a tutt'oggi dei posti di rilievo nello Stato, comunque in imprese, diciamo, a forte partecipazione statale. Certo. Io credo che questo sia un altro elemento sul quale si è discusso poco, ma che è profondamente... Vabbè, i giornali cominciano a parlarne, sì. Senta, durante il processo, quali sono stati gli ostacoli più grandi? C'è stata una grande resistenza? C'è stata una grande resistenza e ci sono stati dei veri e propri fatti, diciamo così, di distorsione nel processo. Pensiamo per esempio agli episodi di falsa testimonianza, certo, compiuti da membri delle forze dell'ordine, anche di un grado, diciamo, abbastanza elevato, e di elementi di depistaggio. A tutt'oggi noi non conosciamo l'ultima firma del verbale, diciamo, falso, per cui gli altri sono stati condannati, nessuno l'ha riconosciuta. Questi, diciamo, sono gli elementi, certo, che ci hanno accompagnato per 10 anni di indagini e processi. Ecco, ma le persone che saranno rimborsate dopo la sentenza di Strasburgo saranno quante? Saranno parecchie, perché io credo che se questa è stata la pronuncia sulla Diaz, le pronunce su Bolzaneto saranno nel medesimo solco, anche perché in quel caso di tortura già si parlò, diciamo, nelle pronunce italiane, pur non avendo diciamo così il reato specifico. Certo. Per cui credo che parliamo di un paio di centinaia di persone. Lei quante persone ha difeso esattamente in questi 14 anni? Io ne ho difese 17 nel processo di Diaz, qualcuna di più nel processo di Bolzaneto. E poi ho difeso anche alcuni dei manifestanti indagati e poi condannati per devastazione e saccheggi. Ma è vero che ha lavorato gratis in questi anni? Certo, abbiamo lavorato gratis, nel senso che non abbiamo voluto mai chiedere neanche un euro ai nostri assistiti. Alcuni di loro poi fortunatamente erano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e quindi, diciamo, certo, abbiamo avuto quell'emolumento, seppur dopo 10 anni. Ecco. Senta, cioè, servizio civile vero e proprio. Senta, perché lo Stato non si è mai costituito parte civile? Questo non l'abbiamo capito, anche perché ci sono stati episodi invece, diciamo, in Italia in cui lo Stato si è costituito a fianco, diciamo, dei funzionari indagati, pensiamo per esempio a Ustica, e contemporaneamente si è costituito per il danno d'immagine che questi funzionari hanno causato al Ministero e al Governo. Nel caso del processo Diaz, Bolzaneto, eccetera, questa cosa non è stata fatta, ma non è stata fatta perché lo Stato ha preso parte... Diciamo, a parte chiaramente la magistratura che indagava, ma il Ministero dell'Interno ha preso parte a fianco dei suoi ufficiali e agenti indagati da subito. Certo, e lei ha detto, non l'ha mai persa. Lei ha detto che i risultati delle sentenze del G8 hanno fatto cambiare idea a tanti giovani sulla giustizia. In che senso? Diciamo che all'epoca noi abbiamo fatto fatica a convincere i giovanotti, soprattutto a difendersi. Assistevo dei tedeschi che erano stati manganellati, arrestati. Insomma, non ci credevano, non ci credevano la possibilità. Esatto. Senta, ma dopo questa sentenza, lei cosa pensa della giustizia italiana? Ma io penso che la giustizia italiana è già difficile dare un giudizio. La giustizia è fatta di uomini e di donne come tutti gli altri campi, per cui credo che delle leggi buone aiutano gli uomini e le donne di buona volontà che nella giustizia tutt'oggi sono presenti. Io ricordo che i magistrati che si sono occupati della vicenda Diaz comunque sia hanno fatto grandissima fatica a portare a casa il risultato, a portare avanti le indagini, e quindi credo che non sia un problema di giustizia astratto, credo certo. Che sia un problema anche di dare a queste, alle persone che vogliono farlo, degli strumenti adeguati e un adeguato supporto. Temo che questo supporto non ci sia. Io devo dire la verità, lei magari è più informato, ma io da ieri non ho notizie di commenti di nessun tipo da parte della politica su questo fatto e su come si intende aspetteremo modificare anche oggi la sarà italiana. Il giorno dei commenti. Ecco, che cosa ci insegna, Mario, secondo te, questa sentenza di Strasburgo? Ma ti dico la verità, tanto che è arrivata, voglio dire. Vabbè, 2001. No, un po' tardino, quindi prima lezione, tempo troppo lungo. Scaduto. Tempo scaduto, già game over. No, è certo che non è che Genova fosse... non fosse stata messa a ferro e fuoco, no, però no. Che per dire tutto, obiettivamente. Allora, e poi c'è appunto il dire tutto. Ora, i fatti alla Diaz sono quelli. E il tutto? Insomma, forse bisogna anche ricordare cosa è successo quel giorno. Infatti noi dopo, nella seconda ora, racconteremo tutta la storia Sentenze, di quei giorni di Genova. Le sentenze sono una cosa, la storia è un'altra. Quando tu vuoi riscrivere la storia con le sentenze, questo non è un buon lavoro, a mio avviso. Detto questo, la sentenza è lì, quindi... Va accettato. Tu, Pietrangelo? Io credo che questa sentenza, come in genere certe sentenze, il tentativo di riscrivere la storia attraverso i tribunali sia fallace, pericoloso e nefasto in tutte le conseguenze, non ultime quelle etiche, perché c'è soltanto da considerare la realtà dei fatti al di là delle retoriche. Questa sentenza non fa altro che confermare una retorica che è falsante rispetto alla verità dei fatti. E cioè quella, come hai detto tu accennandolo prima e preparando l'ascolto di dopo, Genova a ferro e a fuoco. Stabilire quindi i fatti e in conseguenza di ciò che cosa è accaduto. L'idea che la polizia si diverta a massacrare i ragazzi è un'idea totalmente falsa. Certo, però certamente lì è capitato qualcosa che non doveva capitare. È capitato qualcosa che non doveva capitare anche perché c'è sempre il cortocircuito tra... le responsabilità politiche e la gestione dei fatti. E la stessa cosa si verifica ogni domenica nello stadio, la stessa cosa si verifica nei momenti di tensione, la stessa cosa si verifica perché è apparecchiata dal sistema politico nei confronti di chi, essendo non conforme, deve comunque essere bastonato rispetto ad altre situazioni. E in questo c'è una responsabilità della politica, non della polizia. Mix 24. Tutto cominciò come un amore di Susy per il suo bassista, un bassista duro di rock and roll. Suonavano in provincia per passione, così. Oggi Pietrangelo. E oggi la metropolitana era piena di musicisti. E siccome tutto comincia con l'amore, tutto si svolge secondo spartito e passione, questi musicisti in metropolitana erano reduci da tour in provincia. C'erano le coriste con i segni del trucco ancora, i bassisti coi polpastrelli a martello, il batterista coi piatti di smagliante lega sotto il braccio. E poi, con loro... In mezzo a loro, tra la gente, tra i pendolari, c'era Susy, con le ciocche dei capelli lunghi, sempre lunghi, lunghi, quasi a far da sipario alla sua apparizione, come quando cammina e aggiunge luce alla luce, suono al suono, batticuore a batticuore, Ivan Graziani, canzone per Susy. Io, adesso avresti i tuoi capelli lunghi, lunghi, lunghi fino al mandolino. Mario, eccolo. Allora, finita la vacanza, ricomincia, va? Dai, vai. L'ata della maestranza a Siviglia. Le corride di primavera vi richiamano gli aficionados di tutta la Spagna. Qui, in un misto di tragedia e di entusiasmo, di sangue e di ebbrezza, troveranno pane per i loro denti. Il primo toro, minacciosissimo, tocca a Pepe Luis Vasquez. Scatena le forze intatte, la radio è numero uno. Oh, è la corrida, come mai ho messo la corrida? Perché il nostro vero avversario non è, come qualcuno pensa, la Germania, che diciamo è un'aspirazione dal punto di vista economico in realtà. E tra Berlino e Madrid, noi dobbiamo guardare a Madrid. Perché? Perché hanno fatto meglio, stanno facendo un po' meglio sul fronte della ripresa, dei dati sull'occupazione, come avete visto. E c'è una cosa interessante, a mio avviso, che dovrebbe far drizzare parecchio le orecchie a quelli che al Ministero dell'Economia si occupano di debito pubblico, perché ieri la Spagna ha piazzato in asta titoli a breve termine per la prima volta con un tasso negativo. Cosa significa? È un rendimento negativo. Significa che la Spagna ha, diciamo così, presso gli investitori una credibilità superiore a quella di paesi competitor sul mercato del debito come l'Italia ed altri. Quindi, quindi vuoi comprare i miei titoli, sì, li paghi tu, non ti rendono niente. Però li compri sono valore, sono lingotti d'oro. Li compri perché sono, come dire, al sicuro, al diciamo sicuro. Così. Esatto. È molto interessante, per spiegare cosa significa. Questa è la prima volta che accade, l'ha sottolineato anche Mariano Rajoy, che è il primo ministro spagnolo. Che tra l'altro parla poco, fa e parla poco. Sì, al contrario di... No, non lo so, il tuo leader. No, allora, il mio leader. Qua il leader, quello è il capo del governo. Ai ai ai. No, allora, questo è il tema è questo. Cioè, venerdì dovremmo vedere finalmente il DEF. Ieri non c'è stato niente, nel senso che abbiamo visto le linee guida, quindi come se fosse nulla. Ho anche appreso che abbiamo diminuito le tasse, però poi io guardo le tabelle del Ministero dell'Economia e scopro che la pressione fiscale è invariata. Spiegatemi, quello che si dice nella stampa nella sala stampa di Palazzo Chigi è diverso da quello che poi scrivono al Ministero. Ci deve essere qualche mistero su questo. Cioè, dici che non si parla, no? Ma secondo me la politica fa, la mano destra fa una cosa, la sinistra ne fa un'altra, ovviamente. Però insomma la pressione fiscale non è cambiata, questa è la verità, nel corso degli anni. Quindi... Salamino! C'è l'ex e però manca il Po. Così parla Dante Ferretti, che per tre volte è stato premio Oscar per le sue scenografie. E Dante Ferretti, che dice c'è l'ex ma manca il Po, ritira la firma alle sue scenografie. E la famosa Italia cambia verso torna al solito verso. Ritira la firma alle scenografie non di un film, non di un altro capolavoro destinato all'Oscar, bensì ritira la sua firma al progetto per l'Expo, perché l'opera non sarà mai pronta per l'apertura. Manca ormai poco meno di un mese al 1° maggio e la Milano che ai bei tempi che fu quella tutta da bere adesso va a cadere in una clamorosa gaffe. Non si arriva pronti al traguardo. Ferretti manda avanti gli avvocati e diffida la società che organizza l'evento a realizzare parzialmente il suo allestimento ed è pronto a chiedere i danni. Allora, per esempio, delle 500 statue previste, queste nello stile dell'Arcimoldi, ce ne sono in lavorazione solo 22. Ferretti non parteciperà all'inaugurazione a questo punto, però come sappiamo non parteciperà neanche il Presidente della Repubblica, a meno che non si appronti una corsa in tram che dal Quirinale lo porti direttamente a Milano. E però se proprio l'Expo non è completo, pare che di inaugurazioni se ne faranno due. Allora, una il 1° maggio e una il 2 giugno, appunto, che è festa della cosiddetta Repubblica. Della Repubblica. Festa della cosiddetta Repubblica. Cioè? Cosa ho detto? No, niente. Repubblica, niente. Cosiddetta. Ma, come tu facesti una memorabile puntata dove... Monarchia Repubblica, va bene, ok. Va bene. Ma è passato tanto tempo. Certo. Abbiamo presa per buono. Parenti di Ezio Mauro, cos'è tutta sta roba? Allora, scusa. Ferretti ha detto che quando poi c'è tutto un dettaglio, quando il MoMA di New York, che è un posto molto pirritollesco, mi ha dedicato una mostra, ne ho fatte esporre due di queste statue nel giardino del museo con sopra scritto Dante Ferretti per Expo. È venuto anche il commissario Giuseppe Sala, quindi evidentemente, immagino, si è creato un bel cortocircuito, per cui l'Expo intanto l'hanno già fatto al MoMA di New York e non ce ne siamo accorti. Poco ne cale, però insomma non è stata posta neanche la prima pietra, e per cui sull'Expo, dato che non c'è l'ex e neppure il Po, piovano pietre. Sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, se sempre pietre in faccia prenderai. Sei ricco e ti tirano le pietre, sei ricco e ti tirano le Sara pietre. Sara Tardelli, che ci racconti oggi? Eternamente giù. È un titolo carino. Plasmaferesi è un processo molto traumatico per l'organismo. Ma tu non hai un po' di pietà, non te ne frega niente. Tu stai lì con la tua pelle di 22 anni e due tette dure come sassi e mi ridi in faccia. Oh, madame, lei sembra più giovane ogni mattina. Grazie, Rosa, ti sono veramente grata. Che ne dice di una buona iniezione di collagene, no? Iniezione di collagene? Tanto vale che vada a casa e mi lavi la faccia con acqua e sapone. Era il film La morte ti fa bella del 1992. Per chi non l'avesse visto, questo film denunciava, tra una risata e una stoccata sarcastica, gli abusi della chirurgia estetica, descrivendo delle donne schiave della loro dose di botulino quotidiano. Sono passati più di 20 anni da quel film, però mi sembra che sia cambiato poco, diciamo, nel nostro modo di affrontare il nostro aspetto fisico. Se non che ieri è caduto vittima di se stesso Frederick Brent, il celebre dermatologo dei vippissimi americani, come per esempio Madonna, anche noto come il barone del Botox. Insomma, Frederick Brent, il barone del Botox, si è tolto la vita, sì. Pare che non abbia retto alla sua imitazione fatta in televisione, pensate da chi? Da Tina Fey, una famosissima comica americana. Insomma, chi di Botox ferisce, di Botox perisce. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, sì. Certo. Vabbè, è un classico. Allora, petrolio, Giovanni, sta succedendo di tutto in quel settore, impatto economico mostruoso su tutta l'economia ovviamente, ma soprattutto su chi drilla, su chi fa perforazioni, trivellazioni, estrazione, raffinazione, è una rivoluzione. La Royal Dutch Shell ha acquistato il gruppo BG e diventa il secondo player del settore del mondo, supererà la Chevron. E sai quanto vale tutta questa robetta? 68 miliardi di dollari. Che bello. Ma queste servono a strutturare meglio i costi, ovviamente, a fare economia. Leggevo un report, sono previsti risparmi e sinergie per 2,5 miliardi di dollari. E lo Shell Gas che fine ha fatto? Di fronte a questo crollo del prezzo non è più competitivo. È meno competitivo di prima. E quindi tutti gli investimenti sullo Shell Gas? Denaro buttato. Mamma mia. Beh, devo dire che i sauditi in questo sono stati veramente cattivi, veri. L'omino nel pozzo. Una guerra tremenda. Il canzoniere. Non scrivermi mai più frasi d'amore. Non perdere il furore sul campo di battaglia. Io sono solo una piccola provincia che tu hai già conquistato. Non ti curare di adularmi. Riprendi il tuo racconto e affianca agli episodi del tuo romanzo d'armi alcuni squarci di norme, di motti, precetti e insegnamenti. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, gli dai un aiutino? No, io non posso. Ah, non puoi dare. Senza il permesso dare di... un aiutino? Allora. Senza il permesso di buttafuoco, io non faccio niente di questa roba. Ma lo puoi dare, dallo, dai. No, non lo do, non lo do. Vabbè, lui non lo sa, io neanche. Dallo tu l'aiutino. Allora, lui è uno geloso. Molto. Geloso. Poi è un grande condottiero. Ah. E amava i fazzoletti. Vabbè, insomma, dovete capirlo, più di così non si può dire. Dai. Mix 24. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Giovanni, ho dovuto mettere Edith Piaf. Ci siamo, eh? Barbara, non dico altro. Mamma mia. Ho voluto farlo. Ci sono momenti in cui la devi mettere, senti qua. Se una fa una richiesta, tu che cosa fai? La esaudisci, no? Certo. D'altronde, sempre di flirt noi parliamo. È il flirt di Atene con Mosca. Secondo te Tsipras e Putin cosa si dicono? Questo era la domanda. Pietrangelo, apriamo un dibattito. La domanda dalle mille pistole. Intanto andranno ad ascoltare la Santa Messa ortodossa insieme. E quindi il califfato, il califfo. E quindi il vecchio comunista darà delle lezioni al neocomunista. Al giovane comunista. Al giovane comunista. No, perché Putin è comunista, vero? Quello è di sinistra, è diverso. Ex capo del KGB. Cioè, una cosa seria. Vabbè, insomma. Vabbè, comunque è molto interessante questo viaggio. Beh, è un bel giochetto geopolitico. Ora, parliamoci chiaro, non è che Tsipras va là, quello apre il portafogli e tutto a posto, siglerà degli accordi commerciali, poi intanto domani deve pagare la Grecia 460 milioni di rata ai suoi creditori del Fondo Monetario, quindi insomma la situazione non è proprio rosea. Avete visto che anche il consenso in casa di Tsipras si sta in qualche maniera sgretolando. Speranze per uscire dall'angolo in cui sono messi col debito? Hanno chiesto i danni di guerra alla Germania. 279 miliardi. Accidenti. Secondo me è una mission impossible. Il numero verde 349-238-6666. L'SMS ha fatto molto discutere il nostro racconto della Diaz, contro chi dicono? chi difende la polizia, chi difende naturalmente Cera e dice che c'è la città era stata messa ferro e fuoco. Veramente un dibattito molto molto animato. Intanto Salamini di miliardi, io mi ricollego ai miliardi che evocava prima Mario Sechi. Allora, però non i 279 miliardi della Grecia, ma in un contesto geografico limitato, sebbene importante, qual è la Sicilia, sono 7 miliardi 525 milioni e 547 mila euro. Questo è il debito complessivo contratto dalla regione siciliana con le banche. Bene, no? E certo, si tratta di mutui accesi nel passato con gli istituti di credito. Al 31 dicembre 2013 il debito si aggirava sui 5 miliardi. Poi l'azione politica dell'attuale governo siciliano che gode, ripeto, della totale fiducia di Matteo Renzi. Cioè Matteo Renzi dà tutta la fiducia all'attuale governo siciliano, si è aggravato il bilancio. Inutile immaginare di chiedere trasparenza e di riferire in aula, perché comunque fa parte di questa suggestione meravigliosa dell'era renziana che in Sicilia ha la sua epifania, il suo Befano, il suo Tufano, quindi in crocetta. Detto ciò, a proposito di miliardi, dato che la Sicilia si approssima a dichiarare il default tecnico, vorrei ricordare il famoso apologo dei miliardi sul lungomare di Catania, dove c'erano due ingravi da balconi che vedevano la passeggiata delle signore e dicevano: io per questa femmina darei un miliardo. Ne passava un'altra ancora più bella: io per questa ne darei due di miliardi. Ma che due? Quattro di miliardi? Cinque di miliardi? Sette di miliardi? Al che le femmine si girarono e dissero: i femmine non mancano sui miliardi che non ci sono. Marisa, e la famosa buttanissima Sicilia, sì, che ha trionfato in tutte le librerie, ma adesso sta scavalcato, è prolifico, sì, dal nuovo. Marisa da Padova. Sì, da Padova, io sono siciliana comunque, ah, ho apprezzato allora molto la storiella che ha raccontato Pietrangelo. Sì. Allora Marisa, abbiamo indovinato? Spero di sì. Beh, è Otello per me. Beh, fantastico, giusto. Ha vinto il nostro Feltrinelli. Otello di William Shakespeare. È siciliana di dove, signora Marisa? Pronto? Ah, è sparita? No, no, c'è ancora. Siciliana di dove? Di Catania. Ah, Catania, beh, allora, come Pietrangelo. Eh sì, infatti, la cugina. Tua zia, no, cugina. Ah, sì, con molto piacere. Era, la scena era nel famoso passiatore. Raffinatissimo, mi piace molto. Grazie. A tutti noi piace molto, grazie. Simonelli, abbiamo il telefono al professor Simonelli. Buongiorno, professore, buongiorno, come sta? Bene, cosa ci racconta del canone in televisione? Una bella storiella, sentitela un po'. Sì, la vita è tutto un film, e noi giochiamo, e giochiamo, perché noi non ci arrendiamo, fino a quando non vinciamo. Allora? E allora, il nostro amico Renzo la sapeva benissimo, che la vita è proprio tutto un film. E sai che il più bel programma di intrattenimento della RAI, che è L'Eredità, un programma per cui vale la pena di pagare il canone, ogni tanto finisce sotto giudizi molto severi da parte di famosi giornalisti. Domenica scorsa Gianni Mura su Repubblica si stupiva e si meravigliava che i concorrenti dell'Eredità non sapessero collocare in quale regione si trova Vercelli e l'attribuivano alle Marche. Ma qualche settimana fa Aldo Cattullo era stato ancora più severo, perché nessun concorrente dell'Eredità sapeva dire come si chiamava il carcere in cui si era stato rinchiuso Silvio Pellico, e chiamava lo Spielberg, lo chiamava chi Scorsese, chi Cameron, cioè con dei nomi che gli autori si erano divertiti a seminarli. E diceva Cattullo, ma insomma non è giusto che il servizio pubblico regali dei soldi a persone che rivelano tale ignoranza. Io invece penso proprio il contrario. Penso che programmi come L'Eredità valgano assolutamente il canone. Prima di tutto perché consentono al Palco Italiano di ravvedersi e di andare a capire qual era il nome del carcere di Silvio Pellico o in quale regione Mamma si trova. Mamma mia, professore. Ma soprattutto perché consentono ai giornalisti di capire in che mondo vivono. Perché evidentemente giornalisti che scrivono su grandi giornali non si rendono conto di quale ignoranza abbracci i loro lettori. Perché evidentemente gli italiani sono questi qua. E se Cazzullo o Mura non se ne sono mai accorti, forse è un problema dei giornalisti oltre che degli italiani. Lei vabbè, adesso abbiamo deciso dov'è il servizio pubblico della RAI. Poi aggiungiamo una piccola cosa. Rapido, pubblico, professore, siamo in chiusura. Basta. Perché lei poi sarà felice stamattina. Ha azzeccato anche un'altra cosa del servizio pubblico. Se comprate i diritti della Coppa Italia, tra poco usciranno i dati. Sono curioso di vedere cosa ha fatto ieri sera la partita Fiorentina-Juventus. Sicuramente ha vinto la serata. Con pochi soldi la RAI si è presa la Coppa Italia, che a nessuno interessava e che quest'anno è diventata... Vero, è diventato un grande spettacolo, ha ragione. Oggi gli ascolti, un po' presto, ma saranno sicuramente stratosferici. Sì. È sicuro. Grazie professore, grazie professore, ancora una bolla Mario. Al volo, dai. Boogie Wonderland, perché? Perché è una giornata di banche centrali, e quelli che fanno la vera politica economica alla fine. La Federal Reserve dovrebbe pubblicare le minute delle sue ultime riunioni. tutti cercheranno di capire se ci sono segnali sull'aumento dei tassi. Per me no, da quel che si vede almeno, e non ora sicuramente. Detto più avanti, sì, no? Sì, sì, dopo giugno sicuramente, anche più in là. E la Banca dell'India e la Banca dell'Australia invece si riuniscono e dovrebbero tagliare forse i tassi di interesse, mentre la Banca del Giappone stamattina ha confermato il suo programma oltre espansivo, pensate, sono 660 miliardi di dollari l'anno. Niente male. Come abbiamo detto prima, dopo il giornale radio andrà in onda il racconto di quello che è capitato a Genova in quei giorni del G8, curato come sempre da Marina Milone. Il pezzo che vedrete, che ascolterete, è di Andrea Bignami. Ricordo che per chi non lo sapesse o per chi si fosse perso un pezzo di questa puntata, come ogni giorno può essere riascoltata in replica alle 23. Prima della pubblicità, Occhi da Orientale di Daniele Silvestri. Tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Più di 500 notti già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato.